Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Siamo al primo appuntamento di questa settimana insieme all'Associazione Difesa Consumatori di Mestre con il presidente Carlo Garofolini. Bentrovato Carlo. Ciao amico e un saluto a tutti gli ascoltatori. Ormai sono passate 3 settimane dal tornado che ha colpito la riviera del Brenta, ovviamente molto resta ancora da fare. Tra i tanti danni che si sono verificati, magari non danni primari, però che possono avere delle conseguenze, soprattutto se non ci si mette mano subito, danni che riguardano la telefonia. E sì, perché le linee elettriche, sappiamo, vanno subito in tilt e poi anche gli apparati elettronici sono andati in difficoltà. È successo in questo caso ad un'azienda che ha avuto dei guasti piuttosto consistenti, vero Carlo? Sì, Mingo, come hai detto te, in questi giorni stiamo un po' ricevendo diverse segnalazioni di persone che a distanza di settimane ancora non sono riusciti a mettersi in regola con quelli che possono essere anche dei servizi primari, come per esempio il telefono, anche per attività commerciali, di cui magari il telefono in questo caso specifico può essere determinante, ma oltretutto questo caso insieme a molti altri può essere e diventa anche per noi un'occasione per andare a raccontare un po' quelli che sono tutti i servizi che ancora le persone proprio con i gestori stanno avendo in questi giorni, di cui ancora non si riesce a mettersi a regime. In questo caso il telefono appunto era quello di un'attività commerciale, quindi di una pizzeria, ovviamente soprattutto per le prenotazioni, insomma anche per lavorare ordinariamente il telefono è fondamentale, e ormai da molti giorni questa pizzeria è senza. Sì, è proprio il caso di una pizzeria che, come sappiamo tutti, le pizzerie lavorano molto sia per prenotazione che per asporto. Nel caso di questa pizzeria è capitato che in occasione del tornado dell'8 luglio il sistema internet router è andato in palla e da quel giorno il proprietario dell'azienda, il proprietario dell'attività sta continuando invano nei confronti dell'azienda a cercare di ripristinare quella che è un'esigenza di dover ritornare alla normalità con la sua attività. E certamente a distanza di settimane, a fronte di quello che è la situazione in cui si trova, il signore preda anche alla rabbia e ai danni economici che sta ricevendo anche per questo effetto di servizio, si è rivolto ai nostri uffici perché chiaramente a prescindere da quello che è un ripristino della rete e della telefonia, in questo caso sarà cura del nostro ufficio dell'Adico insieme al titolare quantificare anche i danni economici che insomma sta ricevendo, sta subendo per mancanza della possibilità di poter lavorare a pieno regime. Ecco, spieghiamo c'è anche un problema di calendario, perché il tornado, come ricorderete, l'8 luglio, che era mercoledì, il giovedì era giorno di chiusura di questa pizzeria, per cui ci si è potuto effettivamente cominciare a mettere mano solamente dal venerdì, quindi con il weekend davanti, moltissima clientela, moltissimo lavoro davanti, ma anche le difficoltà immagino a raggiungere l'azienda per un intervento immediato. Sì, certamente sembrano quei dettagli che magari possono al momento sfuggire, ma invece noi in questi giorni stiamo raccogliendo un po' un assieme di tante segnalazioni di persone che stanno ancora combattendo con gli enti o con i fornitori per riuscire a mettersi a regime. Questo caso, come ti ho detto, è uno dei casi più comuni, si parla di telefonia, quindi il signore continua a essere isolato dal punto di vista della sua attività commerciale, chiaramente con il cellulare non può sopperire perché nei materiali pubblicitari non era impresso questo numero di cui il signore ha dovuto dotarsi. È una situazione che oltre ai danni che sta subendo, chiaramente può complicargli anche quella che è un'attività futura, non potendosi più rapportare con i suoi clienti. Eh sì, perché se uno telefona in pizzeria per prenotare o il posto oppure appunto per prenotare l'ordinazione, ma o il telefono suona vuoto oppure non suona proprio, o riesce ad andarci di persona appunto a verificare la situazione, altrimenti immagino sia difficile anche per il titolare magari semplicemente comunicare chiamateci, che ne so, a un numero di cellulare piuttosto che al numero della pizzeria, però ovviamente questo può solo tamponare il problema. Sì, certamente, poi sappiamo che anche i clienti, come i nuovi clienti, quando chiami una volta, due volte e nessuno ti risponde, chiaramente poi questa pizzeria non la chiami più. Quindi una situazione che certamente bisogna assolutamente riuscire a risolvere in tempi svelti, ma chiaramente non si può più parlare di tempi svelti perché dall'8 luglio ad oggi sono passati tanti giorni, e per cui a questo punto non resta che procedere con una richiesta di risarcimento danni. Sarà cura dei nostri esperti quantificarla, perché veramente la riteniamo anche noi paradossale essere arrivati a questo punto senza aver risolto nulla, con tutta la buona volontà che il Signore ha dimostrato nel poter tentare in tutte le maniere di colmare questo vuoto. Il problema appunto dei call center, soprattutto nel caso di aziende di telefonia, ma non solo, ne abbiamo parlato spesso. Ovviamente ci auguriamo che non capiti più un tornado, un fenomeno meteorologico del genere, però può capitare che magari un semplice temporale, un fulmine appunto mandi in tilt i sistemi. Allora, se ci dovesse capitare a casa appunto che il telefono non funziona e vediamo che non torna a posto, diciamo, da solo automaticamente, che cosa è consigliabile fare? Beh, nel caso di un'attività commerciale come quella del signore è giusto anche procedere con una richiesta di risarcimento adeguata per quello che è un danno appunto economico che ha ricevuto. Certamente ci sono altri casi, come pensiamo all'energia elettrica o l'acqua, dove delle persone sono rimasti distaccati per molte ore, qualche giorno, di cui oltre ai danni dei ricevuti da lungo danno hanno ricevuto anche danni per esempio di merce o cibo che si è avariato, per cui chiaramente nel caso che questa situazione, che questi disagi dovessero protrarsi per alcuni giorni, chiaramente anche queste cose devono essere considerate. Riteniamo certamente doveroso ricordare la straordinarietà dell'evento, ma certamente non possiamo pensare che a distanza di 20 giorni ci siano ancora situazioni come questa della pizzeria. E speriamo che questa cosa si risolva prima possibile. Noi ricordiamo il sito associazionedifesaconsumatori.it e tra due giorni ci ritroviamo con un altro argomento. Grazie al presidente Adico Carlo Garofolini, buona giornata. Grazie a te, amico, e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.